Beam Busters! Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home. Alla grande esclusiva di Film Busters, è qui con noi un grandissimo personaggio, un grande nome del panorama del cinema italiano, non solo perché suo papà era anch'egli un grandissimo attore del passato e anche del presente, ma perché anche lui è un talentuosissimo artista, conosciuto persino all'estero. Infatti ultimamente ha interpretato una serie TV con Ashley Judd e forse avete già capito di chi stiamo parlando. È anche un bravissimo attore doppiatore, infatti la sua voce farà balzare in piedi tutti i fan del Cavaliere Oscuro. È qui con noi, lo facciamo dire a lui, Adriano Giannini. Grandissimo Adriano, grandissimo, eccoci qua, grande, ti voglio carico così per tutta la puntata. Allora, intanto grazie di essere qui a Film Busters, dici un po' come va. Ieri era il mio compleanno. Ah beh, auguri, non lo sapevo, anzi non mi risulta neanche. Leggo infatti che tu sei nato a maggio, sbaglio, il 10? Il 38, vabbè, c'è qualcosa che non va di sicuro, però sempre simpatico il nostro Adriano Giannini. Ma visto che siamo su un podcast, qual è il tuo rapporto con questo mezzo e ne segui alcuni? Insomma, raccontaci un po'. Alcuni sì, non con tutti, chiaramente, ma con alcuni sì, c'è una selezione naturale che si fa come in ogni rapporto, no? Come in ogni incontro. E dimmi un po', io so, perché ti conosco bene, che tu eri un grande fan dei cineplegici e hai sentito, sono tornati come Film Busters, eh? Non me ne sono proprio accorto. Ah, allora è proprio una sorpresa, sei contento, come ti senti? Insomma, bene, bene. Ah, vabbè, mi aspettavo una reazione un po' più allegra, però fa niente, però ammettilo, eh. Tu lo sapevi già, perché due giorni fa ti ho chiamato e quando te l'ho detto, qual è stata la tua reazione? Ho festeggiato il giorno prima, quindi che un po' non c'entra praticamente niente. In effetti, parliamo adesso però della trasmissione. Non ho fatto parte. No, vabbè, ho capito, inutile tutta questa cattiveria. Io pensavo che tu fossi un nostro grande fan, mi sembra che avevi appunto detto che ti piacevamo anche parecchio. No, mai. No, non l'hai mai detto. Vabbè, devo ricordare male io. Insomma, avrò capito male io. Comunque, visto che siamo qui con una delle voci più belle del doppiaggio italiano, rinomata anche all'estero, parliamo un po' della nostra trasmissione. E con parole tue, di a noi e soprattutto ai nostri ascoltatori, cos'è Film Busters? È una serie televisiva con la madre e due miei amici che parte dal 30 aprile in Europa. Ma che cosa stai dicendo? Chi è la madre di noi? Ma non ha senso, è una serie televisiva, Adriano! Quindi scopriamo che questa serie televisiva apparentemente normale si trasforma in una specie di macchina da giardinaggio. Ma che c'entra? Ma cosa stai dicendo? Non c'entra nulla. Non c'entra praticamente niente. Ma infatti, non è che hai bevuto, Adriano, mica sarei ubriaco. Certo che sì, Vabbè, almeno lo ammetti, insomma. Meglio allora se chiudiamo qui. Che ne dici? Magari sentiamo un'altra volta. No, vabbè, sei totalmente partito. Prima di chiudere però, faccio almeno un saluto, tipo, ciao amici di Film Busters, insomma, una cosa del genere, ci farebbe molto piacere. Ciao Gossip News. Ma no, almeno il nome della trasmissione, ma che vergogna, hai pure riattaccato Adriana, mi dispiace, pensavo di fare una grande esclusiva, invece è venuta fuori una cosa veramente orribile, mi scuso. Non ha azzeccato niente di niente, però dai, siamo partiti col botto, insomma, torniamo dopo decenni e abbiamo subito un ospite internazionale di valore assoluto come Adriano Giannini, questi americani che gli hanno già tagliato una serie meravigliosa quale Missing, insomma. Sì, io diciamo io che non capiscono niente. Dentro. Perché è finito Missing o perché stava un po' ubriaco? Stava un po' tutto, tutto. Vabbè, comunque, niente, ripartiamo alla grande con questo podcast di cinema, il primo podcast di cinema in assoluto. E beh, ci verrà attacchi dopo. Eh? Cioè, questo è proprio l'inizio? Sì, era l'inizio, però tu sei arrivato con la mannaia a tagliare tutto, questo non so quanto era editato. Pensavo che... Vabbè, cioè, parte così, il bello della diretta. È il bello della diretta, sì. Allora, io sono Alessandro Di Romolo, in arte non ve lo dico, e con me ci sono il Monco, alias Pestasaurus. Ciao! E poi abbiamo Intrinseco, alias Intrinseco, perché non so se ha altri pseudonimi, sì. Ecco. No, no, è l'unico. Siamo ancora in quattro, eh. Un attimo, Darkman, se vuoi salutare. Ah, ecco, grazie. Insomma, c'è anche lui, c'è ancora anche lui. L'uomo silenzioso. Sì. Allora, diciamo... stare sopra gli altri, va bene. Dicevamo, noi eravamo i cinepleggici, poi però ci siamo rotti un po' il cazzo tutti quanti, e adesso torniamo diciamo sotto la forma verità, di... dai. Diciamo la verità... Siamo finiti in manette per calcio scommesse, tutti e tre... Vabbè, sì. Però andiamo avanti. Se ne Intrinseco è Carobbio. Io sono Milano. Allora, sì. Pian piano con gli insulti. No, vabbè, allora. Parlavo con dei ragazzi, hanno detto che hanno sentito la nostra mancanza. C'era gente che saliva sugli alberi e gridava: voglio i cineplegici. Sì, ma sul forum di Games Village c'è già chi vuole una conclusione simile a quella dei cineplegici. Insomma, fateci fare almeno 5-6 puntate. Saremo e poi vi offriamo gli spettacoli. Eh? Gliela daremo questa conclusione. Gliela daremo alla grande. Fa iniziare l'estate, di solito noi rompiamo dopo. Io sono già incazzato. La prima news di oggi riguarda Prometheus, se non sbaglio, no? Doveva uscire l'8 giugno come in tutto il resto del mondo, invece è stato rimandato al 19 ottobre. Non era il 18? No. 19, hanno spostato di un giorno ancora, no. Che piano piano arriviamo a dicembre, no? Il film ha subito due rinvii, perché il primo rinvio è stato quello del 14 settembre, che già comunque era una data abbastanza in là rispetto a tutte le uscite internazionali, e poi il film è stato ulteriormente rimandato al 19 ottobre. Che già più senso, settembre non è così meglio di luglio, capisco. Un po' le ragioni di questo rinvio, non so, vogliamo un po' ipotizzare, visto che comunque non c'è stato un comunicato ufficiale di 20th Century Fox che ha rimandato il film semplicemente cambiando la lista, insomma, delle uscite di giugno, e non ha aggiunto motivazioni, ecco. Proviamo un po' si intuiscono forse, se la dovete vedere con due tra virgolette colossi come The Dark Knight e Amazing Spider-Man, che magari non è un pericolo come Batman, insomma. Beh, però l'uscita dell'8 giugno comunque gli garantiva un mese relativamente libero. Sì, io non so, allora sarà questo luogo comune che la gente al cinema d'estate non ci va. Largo ai tre marmittoni. Voi ci andate al cinema, io ci vado, qual è il problema? Il problema è che effettivamente c'è stato un trend negativo, sia per quanto riguarda fine aprile, sia per quanto riguarda l'inizio di maggio, poi tutto maggio e anche il primo weekend di giugno, insomma... Si parla rispetto al 2011 di un abbassamento degli incassi al botteghino, degli spettatori, sia per quanto riguarda gli incassi al botteghino che per quanto le presenze. Parliamo di un 20% in meno, che insomma già d'estate non si incassa niente al cinema italiano. Se abbassa pure del 20% si può capire come abbia un po' spaventato i produttori, i distributori, insomma, di Prometheus. Ragazzi, ma in tutta Europa è già uscito? Sì, anche in Slovenia. Parlavano gli italiani al forum vicini al confine parlavano di espatriare. Io non la voglio vedere in sport, no. Non sarebbe una cattiva idea. Te li no, spari in lingua originale. No. Vabbè, in ogni caso, prima di ottobre usciranno sul mercato nero, tra virgolette, le copie piratate. C'è già. Sì, è una... vabbè, non ne parliamo. No, c'è già chi l'ha visto e l'ha recensito, non so con che coraggio, ma... Ho visto dei siti e elemosinare recensioni di lettori dall'estero, insomma, il primo che passa basta che scrive qualcosa su Prometheus e gli pubblicano l'articolo. Sì, però... la maggior parte delle recensioni sono così, era così buio che non si vedeva un cazzo. Invece il Monco che voleva dirci qualcosa, sento che sta borbottando. Il vero problema, no, è che ho la pasta sopra che bolle. Il vero problema... è che è stato rimandato un altro grandissimo capolavoro, è andato pure a Cannes e ha ricevuto parecchie standing ovation, cioè Dracula 3D, però questo ne parleremo più avanti. La mafia delle majors che oscura anche queste cose. Avete voluto ritardare Prometheus? Bene, adesso probabilmente uscirà nello stesso periodo di Dracula, sono cavoli amari perché la gente dovrà decidere e io penso proprio che tutti andranno a vedersi Dracula, l'ho detto, eh. Tu stai buttando sullo scherzo, però effettivamente ottobre non è un mese così vuoto come poteva essere giugno o diciamo settembre, che l'unica uscita importante è quella di Brave, perché stavo guardando oggi. Prima del 19 ottobre dovrebbe uscire un film d'animazione, non mi ricordo come, Paranorman, che vabbè, è comunque un film per famiglie, quindi un po' di spazio te lo leva. Ma soprattutto una settimana, appena una settimana dopo Prometheus, uscirà Franquini, che è il nuovo film di Burton, quindi famiglie e appassionati di Burton andranno a vederlo. Nuovo tra virgolette. Sì, nuovo tra virgolette, insomma. E una settimana dopo uscirà Skyfall, il nuovo episodio di 007, quindi comprensibilmente Prometheus sarà una vita abbastanza corta al botteghino, perché comunque escono due uscite abbastanza importanti a ridosso dell'uscita italiana. Quindi non lo so con quale criterio abbiano scelto questa data, insomma, forse era la prima disponibile. Se lo facevano uscire adesso, cioè la gente è ancora qui in città, è ancora a casa, non è che sono già tutti in vacanza, e inoltre non c'è nulla di decente che possa contrastarlo. Io non vedo nulla di blockbuster, ormai Avengers è finito nel suo periodo, avrebbe avuto strada libera per almeno un mese intero. Forse avrebbe tolto spazio l'evento sportivo del momento, ovvero gli europei. Ieri sera alle 6, comunque durante la partita dell'Italia, 12 milioni di spettatori. Sì, ma poi per Irlanda-Croazia chi? Nessuno. Ho capito, però... Ho capito, a serate alterne guadagna la Prometheus. No, l'Italia gioca una volta, due volte a settimana. Esce fuori il primo turno, lo sappiamo. Quindi potevano benissimo farlo vedere. Vabbè, però ad esempio c'è stata anche un'altra partita di cartello come Germania-Portogallo, immagino che comunque gli appassionati che in Italia sono abbastanza se la siano vista, insomma. Pensa che gli organizzatori volevano rimandare gli europei a ottobre, anche la gente per non farli uscire in contemporanea con Prometheus. Sì. E Dracula. Beh, spero di non vivere in un paese in cui si decide l'uscita di un film in base agli europei di calcio. Non mi sembrerebbe poi così strano. Infatti, vabbè, in ogni caso parliamo un po' anche del fatto che è andato benissimo al botteghino USA, infatti ha guadagnato circa 50 milioni di dollari nel primo weekend, però usciva il mercoledì sera in una proiezione diciamo di mezzanotte. La 20th Century Fox si aspettava circa un incasso da 30 milioni, quindi è andato ben oltre ogni rosea aspettativa. Su IMDb sta andando abbastanza bene, ha una media del 7.8, è piaciuto anche ai critici perché ha una media del 74% di recensioni positive. E incredibile è che è il periodo caldo degli sport americani, ci sono le finali in quasi ogni disciplina, eppure la gente va al cinema, è incredibile. In un weekend hanno fatto qualcosa come più di 130 milioni di incasso complessivo tra tutti i film, una cosa veramente spaventosa. Quindi è solo in Italia che, bene o male, uscite e incassi sono influenzati da eventi sportivi, però vabbè. Vabbè, ma Perché per esempio un film come Batman continua a rimanere lì? Perché è settembre quasi, eh. 29 agosto, anche Batman è posticipato rispetto all'uscita. Sì, vabbè, ma non così drasticamente. Comunque è in un periodo che forse è anche peggio. Non mi sembra tanto vantaggioso. Non hai tutti torti, perché effettivamente le prime settimane di settembre molte persone vanno in vacanza. Sì. Quindi. No, ma poi se il punto è Batman può permetterselo perché ha i suoi fan, la sua cerchia, e va bene, ma Prometheus... parte con una bella attesa dietro, quindi secondo me non avrebbe rischiato come temono. Tra l'altro una curiosità, il film è uscito, abbiamo detto venerdì scorso, è stato sostenuto da una campagna di viral marketing abbastanza consistente, dico paragonabile a quelle dei vari Batman di Nolan. La cosa particolare è che sembra che il viral continuerà anche dopo l'esordio del film. Infatti è uscito un filmato con Guy Pearce, che nel film interpreta, mi pare, un membro della Wayland, una cosa del genere. Un presidente, okay. Credo. Il filmato mi sembra si chiami Così parlo Zarathustra, una cosa del genere. La traduzione in inglese di Così parlo Zarathustra. E nel trailer appare la data dell'11 ottobre 2012. E molti siti di news, siti cinematografici, insomma, hanno ipotizzato che sarà la data della release sul mercato home video, quindi praticamente il film nei cinema italiani uscirà dopo, sì, che in tutto il mondo sarà uscito in Blu-ray. Come sempre, come negli ultimi anni succede con tutti i film. Ho capito, però il problema è questo, è che siamo arrivati a un punto in cui acquistare da Amazon UK è più facile di acquistare da Amazon.it, e spesso e volentieri Amazon.it ha i prodotti UK immediatamente, lo stesso giorno di uscita sul mercato inglese, quindi... non lo so, se pensavano di incassare poco a giugno, non vedo come pensano di incassare tanto a luglio con il Blu-ray sul mercato. La versione probabilmente BD RIP sui siti. Sì, tarderà. Insomma. No, proprio perché se esce così presto il Blu-ray, comunque la versione non video, usciranno altrettanto presto le versioni, quindi probabilmente al cinema non ci andrà nessuno, l'avranno già visto tutti o l'avranno comprato, e quindi perfetto. E anche se penso sia una morte per gli occhi guardarlo in una versione, sì, anche perché le poche recensioni che ho letto parlano, magari, ecco, quelle che lo bocciano o lo bocciano in parte dicono però il lato visivo è la cosa migliore, quindi mi chiedo, insomma, capisco l'attesa, perché anch'io, insomma, mi rode aspettare, però ormai già sarà difficile con news e recensioni che escono così a manetta ogni giorno, insomma. Sì. Invece il Monco cosa si aspetta da Prometheus? Niente. Hype zero proprio? No, non sono così preso dalla fantascienza io. Vabbè, lo aspetto, lo andrò a vedere e appunto lo aspetterò, non cerco di vederlo in modi vari prima, però il mio hype è abbastanza basso. In questi giorni è uscito il trailer dell'ultimo film di Tarantino, l'ottavo suo film, uscirà a Natale, a meno che anche questo in Italia non venga ritardato a gennaio di 3 anni dopo. Finalmente, dopo aver omaggiato il genere dei B-movie, degli Z-movie, il noir, il blaxploitation, il genere di guerra, finalmente anche il genere western sarà tra i suoi omaggi. E niente, io sono tra quelli che non è molto soddisfatto del trailer. Oh, è un trailer, quindi è inutile fare discorsi troppo specifici o bocciarlo già adesso, che è assolutamente stupido. Però, insomma, le mie aspettative sono un po' calate, perché forse mi aspettavo un western di Tarantino più simile alla trilogia del Dollaro di Leone, quindi molto sporco, sabbioso, con pochi colori. Invece qui, non lo so, mi sembra un western moderno, già i vestiti che si vedono e la vicenda in sé, non lo so, non mi ha convinto pienamente. Voi invece siete ottimisti, mi sembra. E a me ha fatto lo stesso effetto che fanno sempre i trailer dei film di Tarantino, quindi non so mai cosa pensare, però più o meno è quello che mi aspettavo. nel senso che dopo aver visto il trailer di Bastardi senza gloria, più o meno le sensazioni sono le stesse. Ecco, sì, non sembra uno spaghetti western, ma io non mi aspettavo uno spaghetti western. Ecco. Di solito quando omaggia un genere lo fa in modo sempre molto personale. C'è l'omaggio, c'è la citazione, ma li rielabora e li ridigerisce a modo suo, quindi diciamo che più o meno è quello che mi aspetto, perché chiaramente aspetto di vedere anche il film intero. Vabbè, di certo è uno che il genere lo conosce, figuriamoci, Leone è uno dei suoi preferiti e tutti i registi degli spaghetti western, quindi non è che uscirà una cosa avulsa dagli spaghetti western, sarà molto simile, però qui mi aspettavo qualcosa di diverso, ma anche lo stesso Django che è nel titolo è molto diverso da quello che si intravede nel trailer come stile. Poi c'era un rumore di fondo, che un treno in passaggio. Sì, ma non lo so, il trailer mi è piaciuto, insomma, ma non è che mi faccio mai prendere dall'entusiasmo del trailer, insomma. Sì, buon trailer, poche scene, mostra comunque che non sarà il solito, come dicevi tu, il western polveroso e abbastanza scarno dal punto di vista delle tonalità. Anche, ecco, mi ha fatto un po' strano il colore così acceso del costume di Django, quel blu acqua marina, boh, non lo so. Lì bisogna vedere che scena è, perché è strana messa così. Sì, infatti credo che decontestualizzare una scena di Tarantino sia, soprattutto nel caso di Tarantino, non è che puoi trarre la deformazione a scene decontestualizzate come possono essere quelle di un trailer, ecco. Però c'è quello schizzetto di sangue sul fiore che mi fa ben sperare, insomma. La piantagione di cotone sanguinato, sì, fa molto anche samurai, insomma, ricorda. Sì. Un'altra cosa che mi ha un po' deluso è che l'attore principale doveva essere Michael K. Williams, lo sfigurato di Boardwalk Empire, per chi seguiva la serie. Sì. Invece adesso alla fine è Jamie Foxx, che forse, cioè sì, sicuramente è un miglior attore, però come cattivone mi aspettavo di più la sua faccia. E anche questo sì, un po' meglio. Mi deludo. La sua è troppo pulitina quella di Jamie Foxx. Sì. Però aspetta, perché abbiamo rischiato che ci fosse quella di Will Smith, quindi insomma ci è andata anche bene. Non so se era vera questa cosa, io non ci ho mai creduto. C'è un'intervista, non so se l'ho letta su una rivista o comunque su un sito, ma Will Smith ha confermato che è stato contattato da Tarantino e niente, Will Smith ha avanzato l'ipotesi di spostare la produzione di Django, e Tarantino gli ha detto vai a girare Men in Black 3, stai tranquillo, che ne prendo un altro. In che progetto è Will Smith adesso? Il remake americano con Spike Lee di Old Boy. Sì, ma sono anni che si parla di questo remake, ma non si arriva mai a quagliare. Cos'è? Il terzo cambio di regista, poi questo. Però adesso sembra ufficiale. Ormai è finita anche l'onda di hype che si portava presso l'Old Boy originale, quindi che senso ha fare il remake adesso? Poi, secondo me i rumor spesso rovinano il mercato se non sono ben gestiti. Il fatto di sapere prima, forse, ma si tira avanti così tanto che un po' di interesse lo perdi. Un po' come il film live action su Akira. Quello pure è un altro progetto del genere che è naufragato. Ce n'è di cose che sono sfumate. Per chiudere il discorso su Django, avete notato che dopo 5 film consecutivi non c'è l'eroina femminile? Forse poi ci sarà, però c'è la moglie di Django. Sì, ma lui arriva a liberarla, quindi non è importante, mentre negli altri film c'era sempre ed era anche piuttosto incazzosa, c'era anche il tema della vendetta centrale, che c'è anche qui perché Django si deve vendicare, però è molto maschile questo di film, molto più degli ultimi 5. Chi è l'attrice di punta, che non me lo ricordo? C'è un'attrice di spicco nel cast oppure non è proprio un cast solo maschile? No, sì, praticamente. No, ma è una storia maschile stavolta, quasi tutta. Vabbè, in un certo senso vorrei Bastardi senza gloria, a parte Diane Kruger. Vabbè, no, oddio, aspetta, ho detto una cazzata, c'era Melanie Laurent. sì, la femmina di punta questa volta è Leonardo DiCaprio. Sì. Sì, pare di sì, perché fa un personaggio effeminato, quindi è franco nero. Ecco, la prova del 9 di DiCaprio. Lui ha sempre fatto ruoli molto simili, sempre molto non strani. Questo è un po' diverso dai suoi ruoli, quindi vedremo se è un bravo attore o invece gli hanno sempre scritto dei ruoli a puntino, che è quello che io penso, però vediamo. Ma comunque attrice femminile Kerry Washington, non, chi è? Non me la ricordo, ma fa la moglie di Django. Poi dovrebbe esserci Zoe Bell, ma non ho capito in che ruolo. Zoe Bell? La stuntman, sì. Di... Ah, vabbè, figuriamoci. E ancora, no, diciamo, vedo proprio ora il cast e di donne ce ne sono due. A proposito di donne, è il primissimo, anzi è l'unico film che Tarantino fa senza la sua mitica montatrice, morta. Sì. Sally Menken. Sì, quindi vedremo anche sotto quel punto di vista, perché il montaggio era sempre favoloso nei film di Tarantino, vedremo se qualcosa cambia. Dicevo, dalle poche informazioni che ho... si possono trovare al trailer, mi sembra che l'interpretazione di cioè, beh, mi è piaciuto, mi ha fatto una buona impressione di Gabriel, insomma. Anche... esatto, Madonna. Che schifo. Scusate. Questo era il commento all'interpretazione di Gabriel. È come un reattore di potenza. C'è anche Franco Nero, ma Franco Nero c'era anche nel film di Corbucci? No, sì, non è che c'era, era Django. Ah, era, non c'era. Io... C'è anche la battuta nel trailer. Non l'ho visto il film di Corbucci. Leggevo sul forum di Games Village che anche il film di Corbucci era così colorato, piuttosto... No? Una cazzata? Basta non guardare così. Il trailer. Dov'è? Non l'ho visto. Più colorato di Leone, ma non... Non così sgargiante. No, c'era più sangue, un po' più di divise, di colori diversi, insomma, meno giallo, meno sabbia, e un po' più di rosso. Anche perché era più moderno, però sì. non è che... Ma comunque i costumi non erano, sì, c'erano le ballerine, le prostitute, un po' più di colore c'era, ma non... proprio cose diverse. Ma... Poi magari anche quello di Tarantino è così, Sì, magari c'è solo quella scena, però per ora l'impressione è questa. Vabbè, mi pare di capire. Un travestimento che... in quella scena particolare, quindi magari sì, via. Non perché. Allora, quindi mi pare di capire che da parte mia di intrinseco c'è fiducia, dalla parte del Monco, insomma. No, anche perché prima o poi Tarantino un passo falso lo dovrà fare. Finora, cioè, qualsiasi regista prima o poi un film non all'altezza l'ha fatto. Non sto dicendo che questo lo sarà. Però io ho sempre quella paura, prima o poi ne fa uno brutto e succederà. Uno brutto l'ha fatto, però non è colpa sua e la sua parte è buona. No, appunto, la sua parte era buona in Four Rooms, il resto che sì. È una chiavica. No, io non capisco poi tutto quel successo. Vabbè. Se ne parla bene di Four Rooms? Sì, non so, io leggo anche commenti positivi, non so, due palle così, veramente. Si salva quello di Rodriguez, ma proprio... divertente. Sì, appunto, sì, giusto per quello. Non so, non l'ho visto perché non mi piacciono i film a episodi, quindi anch'io non li suggerisco molto. È un antipasto a Spy Kids. Sì, gatti, andiamo bene. Vabbè, l'episodio di Rodriguez, non tutto il film. Ho capito. Le faccio comunque almeno. Passiamo allora alla news successiva. Più che una news, si tratta di un argomento che in un certo senso ci è stato suggerito da un articolo apparso su un blog di Best Movie. Fa un po' vergogna dirlo, però vabbè. A volte è anche una fonte, diciamo, soddisfacente per certe informazioni. E pulisce il culo, sì? Oppure pure il sito, prendi lo schermo e ti ci pulisci il culo. E parliamo di crowdfunding. Allora, la definizione di Wikipedia è che crowdfunding è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizzano il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e di organizzazioni. In parole invece comprensibili all'uomo medio, tu hai un'idea, non è nessuno che te la finanzia. Vai su una di queste piattaforme che appoggiano il crowdfunding, ne esistono diverse, adesso ne parleremo, proponi la tua idea a al pubblico, agli utenti registrati su quella piattaforma. Se l'idea piace, diciamo, ti poni un obiettivo, una somma di denaro più o meno consistente, dipende dall'entità del progetto. Gli utenti vedono insomma quello che stai tentando di offrire, possono offrirti del denaro, tu offrirai ovviamente qualcosa in cambio, e se raggiungi l'obiettivo hai comunque una somma di denaro per iniziare il tuo progetto e per portarlo a compimento. Diciamo che quella più importante, la piattaforma più importante di crowdfunding è Kickstarter, che è salita alla ribalta di recente, soprattutto per quanto riguarda il settore dei videogiochi, perché Double Fine, che è l'azienda dei creatori di Monkey Island, ovvero Ron Gilbert e Tim Schafer, ha proposto un nuovo progetto, una nuova avventura grafica. Adesso non ricordo i dettagli di quanto avevano richiesto insomma gli utenti, quale somma di non avevano richiesto, e in ogni caso il progetto nel giro di una settimana comunque è andato a buon fine, hanno ottenuto questi fondi e niente, quindi questa avventura grafica si farà. In ambito cinematografico invece diciamo i due progetti recenti andati a buon fine sono Iron Sky, del regista finlandese Timo, il cognome Vuorensola, come si pronuncia? Vabbè, tanto non farà nient'altro. Esatto. E l'altro film, che però sinceramente io non ho visto, non so se l'avete visto, è The Age of Stupid di Franny Armstrong, ecco qua. Il crowdfunding proposto da Iron Sky è stato questo, ovvero il regista non riusciva a sbloccare i prestiti bancari per accedere alle somme di denaro necessarie alla produzione del film, allora ha proposto come diciamo primo step d'avviamento la vendita di azioni da 1000 euro l'una agli utenti registrati al suo sito, è riuscito a racimolare una cifra di 900.000 euro. Che poi quindi 900 persone gli hanno dato 1000 euro per produrre il film. Questi 900.000 euro hanno costituito il 15% del budget totale, che mi pare si aggiri sui 7 milioni di euro. Quindi insomma, diciamo un crowdfunding non a offerta libera come di solito è il crowdfunding che riguarda i progetti nati su Kickstarter e altre piattaforme. Nel caso invece di The Age of Stupid, che è stato prodotto dalla Spanner Films, sono state vendute azioni da 500 a 35.000 sterline a circa 223 investitori, e si è racimolata una cifra intorno ai 450.000 sterline. Lo stesso sito adesso propone un diverso tipo di crowdfunding che è diciamo più alla portata di tutte le tasche, quindi ci sono tagli da 10 sterline per arrivare a tagli da 10.000 sterline con diversi passaggi intermedi, e si fa una differenziazione anche abbastanza netta tra coloro che fanno offerte diciamo donazioni libere così e gli investitori veri e propri, ovvero offerte che vanno da 20 sterline a 500 sterline sono i donatori, mentre invece gli investitori possono offrire dai 5.000 alle 50.000 sterline. La domanda ovviamente nel caso di Kickstarter si parla ovviamente il prodotto essendo un videogioco si può offrire qualcosa come appunto la copia del videogioco. Nel caso del cinema si offre la possibilità di essere produttori, di apparire come produttori associati e di ricevere quindi delle percentuali sugli introiti totali derivanti dal botteghino, dalla vendita del DVD. E, non lo so, c'è chi ha detto che questo ovviamente è il futuro del cinema indipendente in un periodo in cui comunque c'è la crisi economica e diciamo, gli investitori sono sempre meno propensi a sborsare soldi per progetti indipendenti, questa può essere una scappatoia. Voi cosa ne pensate? Avete avuto modo di crearvi un'opinione, magari anche guardando il risultato come un risultato come Iron Sky, insomma. Dai, avanti, Monco, dici qualcosa. Nei momenti in cui ero sveglio mi hai emozionato. se i risultati sono quelli di Iron Sky, insomma. Meglio tenerseli quei 900.000 euro. Poi vabbè, uno i soldi li butta come vuole. penso che il problema non si, cioè l'idea è ottima, insomma, uno richiede i soldi, poi tu sei liberissimo di aiutarlo a, insomma, a permettergli di fare le sue robe artistiche. Il problema è, sono proprio le idee. Se io devo aiutare uno a uscire con un film come Iron Sky, insomma, no, me li tengo quei soldi. È una bella idea, ma andrebbe sfruttata meglio. Quello. Intrinseco invece? No, appunto, ma puoi saperlo prima se il film è brutto. Soprattutto, se il film è brutto, puoi essere tolto dai titoli di coda. No, comunque si tratta di un investimento, diciamo, è un capitale di rischio in un certo senso, perché sì, non appunto, puoi sapere investimento, sì, a tuo rischio e pericolo, cioè, ma esatto, non so, ma a prescindere dai risultati di Iron Sky, comunque a me non ha disgustato così tanto, ma comunque insomma, lascia il tempo che trova, no, non la vedo come, insomma, abbastanza esile come possibilità, addirittura il futuro non so, non ci credo molto. Come possibilità concreta, sì, può funzionare come in questi casi, ma non perché il risultato sia buono, ripeto, cioè non sia buono, perché semplicemente è molto limitativo. C'è, certo, un'alternativa quando lo permette, ma non credo possa diventare uno standard, comunque un modo di lavorare. E perché ritieni comunque che non possa diventare uno standard? Ma perché, non so, appunto proprio un film come Iron Sky, sì, è particolare, ma insomma chi è che si sente di rischiare tutte le volte che qualcuno produce una cosa del genere? Beh, sarebbe bello, e non ho capito se funziona così, che io metto i soldi ma ho anche voce in capitolo, nel senso mi dai la sceneggiatura, la leggo, poi ti dico la mia opinione. Vabbè, se ti do 5 euro è logico che la mia opinione conta meno di zero, però se sono un buon investitore, quindi divento un quasi produttore esecutivo, posso dirti la mia e dire no, guarda, cambiamo questo, cambiamo quello, perché magari il film è una schifezza, però l'abbiamo prodotto in tanti e il nome sui titoli di coda è anche quello nostro, e se appunto il film è brutto, a me dispiace. Il fatto è quello che anche solo con Iron Sky parliamo di 900 persone che hanno contribuito, e sentire la voce di 900 persone proprio quello. Poi, appunto, è improbabile. No, fai dei sondaggi. Però a quel punto non stanno più mirando la tua idea, ma stanno creando un'idea ex novo, insomma, non è più, perde un po' il concetto di crowdfunding, nel senso l'idea, l'ossatura dell'idea rimane, però certo. Mettiamo... Si entra tutti in un forum, mettiamo, tutti dicono la loro, se il 90% dice ammazza che schifo tal scena, beh, lavoriamoci su, pensiamo a come cambiarla. No, ovviamente se l'artista intende anche venderlo il prodotto, non solo fare la sua creazione e farci sì le seghe sopra, immagino che ascolterebbe i consigli di chi l'ha finanziato, quello senza dubbio, però... Allora smette di essere cinema indipendente, però. Esatto, anzi diventa ancora più vincolante. Quella, dare fiducia a un artista, poi rischio e pericolo, però l'idea è quella. Non, se cominciano ad arrivare investitori più grossi, o comunque si comincia a coinvolgere il produttore, anche se è un produttore che dà 1000 euro, allora va a farsi benedire l'idea. Cioè, l'idea qui è permettere a una personalità di esprimersi indipendentemente. Certo. La cosa particolare delle piattaforme di crowdfunding, esistono delle piattaforme di crowdfunding anche in Italia. La più importante è quella di produzionidalbasso.com, che sinceramente io non conoscevo e non pensavo fosse così... grande, perché in un certo senso Produzioni dal Basso ha finanziato comunque progetti per più di 480.000 euro, quindi comunque è una realtà abbastanza consolidata, ecco. E, oltre a produzionidalbasso.com c'è anche cineama.it, che non è una vera piattaforma di crowdfunding, o meglio, per il crowdfunding si appoggia a Produzioni dal Basso. Su Cineama più che altro si possono proporre e condividere progetti, in modo tale da mettersi in contatto con altre personalità del mondo del cinema e creare vere e proprie, diciamo, crew ad hoc. Nel senso, io posto il mio progetto, la mia idea, la mia sceneggiatura, se ci sono figure professionali nella mia zona che vogliono collaborare, mi contattano e possiamo creare una un cast tecnico così da zero, insomma. Anche quell'idea di cinema è abbastanza interessante. No, io sono contrario, fermamente, in Italia. Sì, perché sennò cominciano a produrre gente come albanesi o lombardi, insomma, quelli che fanno l'horror indipendente, tra virgolette. E se il risultato è quello, no, preferisco il capitalismo sfrenato. Guarda, io ho visto su produzioni dal basso, ci sono i vari progetti. Ce n'era uno che parlava di un fantasy all'italiana. Era la presentazione del progetto era appoggiata da un trailer atroce, ma cioè veramente Fantachiro sembrava il Signore degli Anelli in confronto come qualità di messa in scena. E questo progetto, lasciami stare Fantachiro, sì, qualcosa del genere, cioè... o Desiderio all'anello del drago. Vabbè, in ogni caso, come obiettivo aveva 100.000 euro il raggiungimento 100.000. Del budget, ma la cosa impressionante è che già stava a 42.500 euro. Con azioni dal dettaglio di 50 euro, quindi adesso facciamo un'operazione rapida: 42.500 fratto 50 significa che hanno avuto la fiducia di 850 persone, una cosa atroce, soprattutto alla luce di quel trailer che è veramente impressionante in senso negativo. Non l'hanno guardato, l'ha messo dopo, i soldi, eccovi il primo trailer. Vedi, appunto, cioè è controproducente questa cosa, sì. Per carità, sembra brutto dire no, può uscirne un film brutto, non facciamolo, è una cosa negativa, però non so, vivendo in Italia uno comincia a diventare cinico, perché certo, quando viene data la possibilità a certi personaggi, cioè, a me piace l'horror, ma spesso mi faccio piacere anche le peggiori schifezze, però quando vedi certe cose come fa a essere clemente? Ecco, un'altra cosa che secondo me rende Kickstarter migliore di produzioni dal basso è il fatto che Kickstarter appoggia progetti che durano, cioè, diciamo, il crowdfunding dura al massimo un paio di settimane, nel senso, io posto il mio progetto, se in 2 settimane riesco a raccogliere quella somma di denaro, bene, altrimenti il progetto devo trovare, diciamo, altre forme di finanziamento. Allora, su produzioni da giugno. Eh? Non farlo a giugno. Sì, sì, infatti. Su produzioni dal basso i progetti durano qualcosa come anni. Il termine del crowdfunding di questo film fantasy, di cui non ricordo il titolo, terminava a settembre 2013. E, il fatto è questo, le donazioni non sono immediate. Tu ovviamente non dai i soldi prima che sia raggiunto il budget definitivo. Tu fai una, diciamo, un ordine, casomai l'ordine viene comunicato a PayPal e dopo verranno presi i soldi quando e se il progetto raggiungerà il budget stabilito. Ma se nel caso di Kickstarter, in 2 settimane, tutto sommato, insomma, tu stai impegnando una somma di denaro per 2 settimane, non mi sembra qualcosa di trascendentale. E nel caso di produzione dal basso impegni somme di denaro per 3 anni. Secondo me è una cosa italiano. Che funziona. È il metodo italiano. È il tempo di morire in 3 anni, insomma. Completo la mia opinione precedente. Io dico che non mi piace questo crowdfunding, appunto perché non ho voce in capitolo. Quindi non darei mai i miei soldi se non posso dire la mia, questo. E poi, per evitare film come quelli di Gabriele Albanesi, di Lombardi, ma anche, vabbè, Iron Sky... è un capolavoro in confronto, è necessario che ci sia qualcuno che ne capisca di cinema. Se lasciamo un film in mano al pubblico, che di solito è bue, esce della merda. Quindi è un'idea orribile. Togliamo l'indipendenza? Sì, togliamo l'indipendenza. Non sono più film indie, perché ci sarà qualcuno che li supervisiona e che magari mette un po' più di soldi. Ma, solo al pubblico... è che è una soluzione migliore. cioè questo tipo di iniziativa la fai mettere in atto da registi indipendenti già noti magari. Cioè io sì, per esempio dico, i soldi a uno Spike Jonze li darei. Quello sì, perché però dopo funzionare in quel modo, no? Ma di quei registi indipendenti però già famosi. Sì, sì, sì. Dico, usarlo in quella forma, cioè per quei sì, registi sì, in quello, idea, sì. Hanno già una base di pubblico, non sarebbe male, sarebbe un modo per dare spazio a loro. Sì, ma infatti il problema del comprare a scatola chiusa, tu comunque se compri a scatola chiusa ma compri presso un bravo regista, un bravo autore, allora casomai vai anche a fidarti. Ma dare soldi a uno sconosciuto, insomma, mi sembra un azzardo. Perché e poi è quello differenza... che succede anche per i videogiochi su Kickstarter, nel senso, per tanti progetti che muoiono, quello che ha raggiunto l'obiettivo più famoso, che è appunto quello dell'avventura grafica di Double Fine, ha raggiunto quella cifra perché comunque dietro ci stanno personalità che hanno fatto Monkey Island, che hanno fatto la storia del videogioco, quindi... è naturale che se ci sono loro dietro un videogioco tu gli dai soldi, ma se c'è il Pinco Pallino ovviamente sarà più difficile ottenere i fondi necessari, devi avere veramente un'idea solida, ma anche in quel caso chi garantisce che l'idea solida poi si trasformerà in un film effettivamente valido? La differenza è tra l'acquisto basato su esperienza invece l'offerta, quindi sì. io ti do dei soldi e guarda perché mi stai simpatico, e allora no, quello non riesco, non riuscirei neanche a dare un centesimo a uno che non conosco per niente, e soprattutto se non so neanche di che film stiamo parlando. Io voglio leggere qualcosa prima. Vabbè, non ho capito se potrebbe questo farlo succede. Funzionare, no? Mettere il materiale su internet, dire questa è la sceneggiatura, e infatti, ma non so se questo crowdfunding funziona in questo modo. Se funziona in questo modo, no, ecco, allora no, niente, io non riuscirei a dare nulla, non riesco a... Dipende, perché comunque dipende da quello che l'autore o i produttori decidono di darti in cambio. Se c'è chi decide di darti solo in cambio magari la copia del DVD o magari il biglietto della premia della prima visione, oppure non lo so, una percentuale sugli incassi. Probabilmente il prodotto c'è... finito, però, eh. Eh sì, però magari c'è anche. E voglio lo script prima. Qualcuno potrebbe proporti. Vabbè, ovviamente sono tutti bonus a cui tu accedi dopo aver dato la somma di denaro. Vabbè, quello che tu puoi visionare è l'anteprima che è stata preparata ad hoc, ma magari è stata preparata ad hoc per attirare più gente possibile. Quindi bisogna anche vedere quanto sia attendibile la preview, la presentazione, e quanto sia poi aderente alla realtà. Insomma, sì, posso anche dirti faccio un film fantastico sugli zombie e poi, non lo so, inquadro la mia cucina per mezz'ora, insomma. Diciamo, per trattare questo argomento ho spulciato un po' dappertutto, però non mi è ancora chiaro chi è il garante del risultato finale. Per me ovviamente, secondo me è l'artista, nel senso, sì, è lui quello che ha l'idea, e allora a lui bastano i soldi, boom. Tipo, bene o male che vada, ormai fatto è che, ad esempio, su produzioni al basso, per quanto riguarda sempre questo film fantasy, non puoi offrire meno di 50 euro, secondo me così è una... Cioè, non è un crowdfunding che non funziona. Su Kickstarter tu puoi anche offrire solo un euro, anche meno di un euro. Poi ovviamente accedi a determinati bonus se offri tot somma di denaro, ad esempio, con la grafica di Double Fine, se offrivi più di $15 ottenevi ovviamente il gioco. Ma è normale, perché un gioco del genere lo pagheresti $15. Io dare soldi a chi vuole fare quel fantasy così a uffa, 50 euro non lo darò mai, insomma. Se però vedi, questo hanno messo lì un trailer, è già qualcosa, no? Per dire no, ok, a questi qui non voglio dare soldi. Il trailer era del tipo, abbiamo fatto questo trailer con 3.000 euro, immaginate cosa possiamo fare con 100.000 euro. Appunto, però è comunque un esempio, ti fai un'idea di chi è la persona, è appunto sì, una terra larga. Ma non te li do comunque 50 euro. Dammi la possibilità. No, però intanto ecco, quello ti dà qualcosa su cui riflettere in negativo. Sì. Vabbè. cioè alla cieca è diverso, anche perché poi come dicevi tu c'è anche il pericolo della truffa, non solo perché uno fa magari un prodotto scadente, ma proprio perché ci sono i truffatori, poi in Italia siamo specializzati. E vabbè, okay. Non so, volete dire qualcos'altro? Passiamo ai film. No, basta, abbiamo fatto 40 minuti per sta merda del crowdfunding. Che dai i soldi alla cieca, io li do alla zoppa. È un ognomo armato con l'ascia. E allora partiamo con i film che abbiamo veduto e li commentuto. È un nano armato con l'ascia. Bene, bene, molto bene. Lasciamo da parte il crowdfunding e i loro film senza un reggente e guardiamo The Night. Guardiamo? Ti sei spento. No, passiamo ai film che abbiamo veduto in sala questa settimana, che potete ancora trovare nelle sale. Ma sapete cosa vi dico? Ma passiamo ai film in sala. Passiamo ai film in sardo. Allora, partiamo con Dark Shadows con Johnny Depp e diretto da Tim Burton, no, guarda un po'. Vabbè, ne inizio a parlare io, visto che è il film che mi è stato appioppato da voi, cattive bestie. Allora, Dark Shadows è il remake, possiamo dire, comunque ispirato a una serie TV degli anni 70. La quarta era ispirata a una serie TV, no, c'è cioè una serie TV anni 90, uguale. Quindi sia la 90 ispirata a quella del 70. Sì, ma no? Dico, è già la seconda versione questa. Sì, non ce n'era bisogno, però vabbè. Ma per il cinema è la terza. Che tristezza. Allora, la trama parla di questo Barnabas Collins, che è il rampollo di una famiglia facoltosa, che vive a Collingwood, appunto, talmente facoltosa da dare il nome anche alla città. Gestiscono il mercato del pesce in questa città marittima, sono straricchi, insomma, ben visti dalla comunità. Fatto sta che Barnabas non corrisponde l'amore di una donna. Questa donna si rivelerà essere una strega, che lancerà una maledizione su Barnabas trasformandolo in un vampiro e condannando a morte, diciamo, tutte le sue amate, le donne che amerà nel corso della sua vita da vampiro, ma accanendosi anche, diciamo, sulla famiglia di Barnabas, sui Collins. Dopodiché fa in qualche modo uccidere l'amata da Barnabas, facendola cadere da una scogliera e sotterra Barnabas in una cassa da morto per circa 200 anni. Dopo 200 anni viene riportato, insomma, alla luce questo Barnabas Collins da degli operai maldestri, e da qua, insomma, si trova negli anni 70. Ecco, ricordiamo, non l'ho detto, che Barnabas Collins viveva nel 1760. Vive due secoli in questa bara, dopodiché viene risvegliato negli anni 70. E finora, finora il tutto regge. Il tutto regge, sì. Questa è la sinossi, la sinossi. Non svegliamo i colpi, diciamo. È noioso anche da sentire. Sì, guarda, è pazzesco, guarda, è una cosa. Vabbè. Quindi già più o meno avete capito qual è il nostro parere sul film. No, però. Il trailer sembrava molto promettente, era ritmato, colorato, wow, sembra i primi Batman tipo Beetlejuice. Poi secondo me questo film è un fallimento su due fronti. Allora, il primo fallimento è, diciamo, il fallimento che riguarda i film di Burton dal 2005 ad oggi, ovvero dopo Big Fish, ovvero sono tutti film uguali. Ormai non si parla più di cifra stilistica, che è quella che Burton aveva anche prima di Big Fish, ma si parla di pedissequo copia e incolla di elementi. Ci stanno le stesse musiche di Elfman, le stesse tinte fosche, stessa fotografia, stessa scenografia dei catenti, stesso Depp con 100 kg di cerone bianco in faccia, la stessa moglie stessa moglie, tutto sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale. E diciamo che in un certo senso Dark Shadows forse è più sobrio degli ultimi film, cioè non è una merda totale come era ad esempio Alice in Wonderland, non c'è la deliranza per fortuna, però non sfugge al cliché, è comunque un film uguale a tutti gli altri da un certo punto di vista. Il secondo fallimento è che, come dicevi tu, secondo me il materiale per fare qualcosa di diverso c'era, perché innanzitutto c'era la possibilità di fare un film corale e Burton si era avvicinato a un film di genere con Ed Wood in un certo senso, però qui c'era una bella famiglia disfunzionale con tanti personaggi che potevano avere qualcosa da dire. Ad esempio il personaggio di Michelle Pfeiffer all'inizio sembra anche un po' ambiguo, ma durante il film diventa un personaggio di una piattezza unica. E quindi insomma non è stato sfruttato questo elemento, nel senso sono stati buttati nel calderone questi personaggi, non sono stati sviluppati, sono stati lasciati un po' là a morire, vabbè. L'altro elemento che determina il fallimento di Dark Shadows è che, cioè, dove stanno gli anni 70 in Dark Shadows? Comunque nella macchina gli scooter. Due cose e la canzone all'inizio sui titoli di testa, gli scooter, vabbè, gli hippie che se magna. Cioè, tu comunque hai a disposizione un periodo storico che stilisticamente è diverso dalle tue solite forme, insomma. E che fai? Ambienti tutto il film nella villa settecentesca che ha dalle architetture gotiche e decadenti. Ma che cazzo, ma fatemi vedere qualcosa degli anni 70. Tutti sti colori sgargianti, non lo so, i pantaloni a zampa. Casomai è anche un po' un cliché. Rappresentare gli anni 70 così, ma almeno fammi vedere qualcosa, non me li fa il solito film con buio, con le guglie, con gli alberi nodosi, che palle, basta, no? Ma io magari ci così. Fossero gli alberi nodosi, come ho detto, sì, io uno ce n'è, c'è quello sulla scogliera, quello... Sì, ma quello... lo dicevo dopo la visione, quando ho anche commentato, secondo me è povero proprio in generale, anche stilisticamente, cioè almeno prima ti ammorbava con i colori, ti bombardava con queste cose come in Alice in Wonderland. Dava fastidio, sì, però qui non c'è nemmeno quello. No, è tutto buio. Tutto anonimo, ma secondo me quello che ho percepito anche... Sì, ma è grigio, oltre che buio, è proprio piatto, grigio, noioso. Non riesce neanche più a... Non so se qualche bambino sia rimasto sveglio, che io ho faticato, Ma non è manco un film per bambini come era Alice in Wonderland, insomma, piuttosto, non lo so. Sì, forse meno per certe cose, sai, su certi temi magari è meno diretto a loro, però insomma è venduto come commedia per famiglie, sulle famiglie, non so, li addormenta tutti i membri della famiglia, questo è sicuro. A Burton gli eserizza più, insomma. Sì, no, il Burton che conoscevamo, secondo me, è morto proprio con Big Fish e ne è emerso un uomo economico mosso solo dal guadagno, proprio. No, non dico che Sweeney Todd fosse una cima, però tra gli ultimi è quello che si salva di più. L'ultimo singhiozzo di creatività. Ma perché sì, è un musical, perché alla fine dal punto di vista visivo e di contenuti non è tanto diverso dagli altri, No, però è anche lui che se le va a scegliere, insomma, sto Dark Shadow, bisogna vedere la serie TV quanto era ambientata dentro le guglie, eccetera, e non vanno mai fuori in paese a vedere sti anni 70, quindi, non lo so, per me se le cerca proprio lui, e soprattutto, non avendo sviluppato neanche un personaggio, prende un'idea che magari gli piace o gli dicono guarda questa è bartoniana, allora se la prende e la ricopia totalmente senza lavorarci neanche su, perché no, una volta sapeva anche scrivere lui e anche dei bei personaggi tipo Edward Mani di Forbici, c'erano dei personaggi molto interessanti, adesso non c'è neanche più quelli, boh, sono tutti uguali. Ma anche in Ed Wood, ad esempio, la cricca del regista. Sì, comunque. Sì, anche. Sì, casomai sono macchiette, però comunque sono ben rappresentate, hanno una certa personalità. Qui servivano tantissime le macchiette, tipo il giardiniere poteva essere, invece non lo è, non è sviluppato. E tutti i personaggi sono copie dei personaggi visti nei film precedenti, perché per esempio, come si chiama la donna qui, la ragazza di cui lui è innamorato? Non mi ricordo, vabbè, Victoria, è la copia, è la copia identica di Joanna di Sweeney Todd, cioè sono personaggi ricalcati. Johnny Depp, vabbè, fa sempre lo stesso personaggio, sì. Non scrive neanche più, non so, le sue sceneggiature credo che siano 4 pagine, poi il resto è vedi film precedente. Appunto, ma ormai fa adattamenti, cioè non ha neanche l'occasione per scrivere, da quant'è che non fa un film originale? L'ultimo immagino che sia stato La sposa cadavere. Sì, sì, sì. Probabilmente sì, perché cioè Big, vabbè no, Big Fish è prima, comunque sì, sì, gli ultimi sono Alice in Wonderland, questo, La fabbrica di cioccolato, e Sweeney Todd, non ha neanche l'occasione di scrivere. Comunque poi mi è piaciuto, cioè, hai citato Ed Wood, che anche sì, quello, se vogliamo, non è una sceneggiatura originale, però la differenza è quella lì, quando Burton era ancora un regista interessante, prende una storia vera e la resa sua in tutto, cioè Ed Wood è molto personale pur essendo biografico, ma anche Batman, ad esempio, un materiale buono e fa questo, quindi insomma, non ci sono, non servono altri segni per capire che ormai è alla frutta. Non capisco chi ancora lo difende, perché tu hai parlato di famiglia disfunzionale, ma ancora la famiglia disfunzionale, cioè, lo fa da 20 anni quello, solo che non sa fare neanche più i suoi cliché, non... appunto è, una, è un cliché di se stesso, ma si è stancato anche a farlo, quindi appunto grigiore, piattezza, cioè, percepito anche un sacco di stanchezza, alzarsi la mattina. Io penso che ci sia anche un sacco di stanchezza, proprio noia anche da parte sua, perché comunque un sacco di elementi, un sacco di anche colpi di scena totalmente dal nulla, ad esempio la beh, mo spoileriamo, però la ragazzina tipo Mannaro, che c'entra? No, ma che dici? Oh. Vabbè, ma che c'entra? Cioè, dal nulla, piena energia. No, cioè, non spoilerare, proprio il finale. Vabbè, ma stica, ma che non, sì, non guardate. In realtà poi non è neanche un evento chiave, comunque sì, vabbè, è proprio piazzata lì per dire, vi ricordate i telefilm? Ecco, c'era anche questo. Vabbè. Poi mi è piaciuto, qualcuno ha avuto il coraggio di dire che in Italia non l'abbiamo capito perché quello è un fenomeno di costume, un telefilm americano che noi non capiamo, non ci arriviamo, non siamo affezionati, va bene, ma insomma noi dovremmo vederle con un occhio molto più obiettivo, proprio per questo, eppure non ho visto recensioni positive. No, ma non neanche su Rotten Tomatoes mi pare che abbia una media di 43%, quindi nemmeno gli americani che Dark Shadows lo conoscevano, sì, sì, appunto, hanno apprezzato, sì, insomma. Lì almeno andavi sul sicuro, c'era un po' più di spinta, cioè chi lo conosceva, chi se lo ricordava, ha detto vado al cinema, gli do questi $7, quello che è. Noi andavamo più sulla fiducia, chi ancora ne ha. Certo. Però sì, appunto... traviati dal trailer soprattutto, sì, davvero, il problema è il montaggio dei trailer, come in molti film, ma qui veramente spacciato, perché sembrano due film diversi. Io non vedo molta stanchezza in Burton, ma più che altro agiatezza, siccome i suoi film brutti o belli incassano lo stesso, non si sbatte assolutamente a fare qualcosa di buono o di diverso. Il pubblico, tra l'altro l'età media del suo pubblico si abbassa sempre di più va avanti, il prossimo sarà Frankenweenie che lo abbasserà ancora di più, e quindi anzi lavora anche con la Disney sempre di più, gli va bene così, perché sbattersi? Quindi non è stanco, sta bene, dovrebbe trovarsi, che ne so, con le pezze al culo, magari riuscirebbe a fare qualcosa di diverso. E poi volevo dire un'altra cosa, ma ricordo. Più che stanco, disinteressato, cioè ormai faccio qualsiasi, sì, cosa, la quello sì, il problema tanto è il pubblico, i critici, perché poi se gli fanno anche fare le mostre nei musei d'arte contemporanea, se gli fanno fare il libro, i quadri, le cose, insomma, qualsiasi cosa produce ormai è bastoniano. Il problema è che poi... se vai a chiedere dal pubblico è sempre meno contento di quello che fa, eppure continua in cassa, sì, a vendersi come grande artista. Neanche se, sembra Lynch, no? Che fa il quadro, fa la cosa esterna, e tutti dicono, ah, che bello. No, è anche Burton, incredibilmente. Piace, vabbè. Ecco, lui sarebbe molto simile a Wes Anderson, cioè un riciclo delle proprie idee. Però Wes Anderson ha sempre un livello molto alto, nel senso che riesce ad avere... a riciclarsi bene, molto bene, mentre Burton non riesce neanche più a fare quello. Ma soprattutto sa scrivere i suoi film. Sì, sì, è un grandissimo Burton scrittore. Burton non lo sa più fare, insomma. Burton ormai ha perso il talento di scrittura, ma da almeno 7 anni. Però come non scrive proprio, non è... quanto deve fare? Deve mettere mano a una cosa già pronta. Sì, dice, ci metto il personaggio stravagante, ci metto gli occhialoni, il costume, ma quella non è sceneggiatura. Probabilmente scrive il minimo indispensabile. Sì, sì, certo. Non c'è una perdita di talento o una stanchezza, proprio non deve più farlo, tanto fa adattamenti, trasposizioni, oppure, come succederà fra poco, rifà i suoi film, addirittura proprio il colpaccio, no? Perché fa il cortometraggio di gioventù con il live action, quindi perfetto. Ma magari anche questa cosa di dover produrre più di un film all'anno è la stessa cosa che poi ha colpito anche Clint Eastwood, cioè forza di fare lo stesso film, non è lo stesso film, però fare film in un anno. Per Clint Eastwood il discorso è un po' diverso, sembra quasi che ha avuto un periodo d'oro, per il resto se vai a vedere la sua filmografia non è che sia sta cima, vai a vedere il periodo prima Million Dollar Baby e tutti gli altri e secondo me invece sì, allora sì, anche prima di quello insomma. È sempre andato a rate, no? Secondo me non è che c'è una fase prima, perché se vai a vedere i film prima c'è roba ottima alternata a cose piatte come quelle che sta facendo adesso, secondo me non c'è un cambiamento. Ah, quindi non pensate che il fatto di dover produrre un film all'anno possa essere deleterio per un artista? Per Eastwood, sì. Dicevo, per altri è possibile, no? Io parlavo solo di Eastwood. Per Eastwood no, però ad esempio per Burton ormai veramente nessuno li lo mettono là per girare, non lo so. Da quando è diventato un artista della Disney, penso che ormai è finito Burton. Dipende comunque dall'artista, non dal periodo, perché Woody Allen fa da sempre un film all'anno, però fa magari 7 anni di fila buonissimi, 6 anni di fila pessimi, 7 anni di fila buoni, non dipende quello, dipende dall'idea. Burton potrebbe anche fare un film ogni 10 anni, mi sembra che abbia perso proprio la sua anima. Sì, è finito, punto. E vabbè. Pace all'anima sua, passiamo al film. Ma sarà contento di essere morto con i suoi personaggi. Sì, probabile. Allora, il prossimo film è molto forte, incredibilmente vicino, e ce ne parla Intrinseco. Okay. Il molto forte, incredibilmente vicino è un adattamento di un omonimo romanzo di Jonathan Safran Foer, che lo si pronunci così, che è già arrivato al cinema con Ogni cosa illuminata, diretto da Liv Schreiber, anche quello molto bello, storie molto simili comunque, molto umane. Questo in particolare racconta la storia di questa famiglia, comunque nel film, dopo quel che ho capito, c'è più rispetto al romanzo, ci si concentra di più sul protagonista che il bambino, Oscar. Allora, sì, dunque, dove sei arrivato? Questo Oscar che ha un rapporto molto profondo con il padre, che per fargli vincere le sue fobie lo fa, diciamo, lo spinge a esplorare la città, comunque a fare una serie di giochi che lo stimolino a incontrare gli altri, a superare le tante fobie che ha. E poi un giorno, l'11 settembre, il padre viene coinvolto, comunque rimane coinvolto nel crollo delle Torri Gemelle, e ovviamente la famiglia ne subisce le conseguenze. In particolare si crea una frattura tra il bambino e la madre, interpretata da Sandra Bullock, perché appunto insomma il figlio cerca di ritrovare un contatto con il padre, lui dice di far durare il più possibile questi 8 minuti, questa fase in cui ti rendi conto che la persona è scomparsa, continuando un gioco che faceva con il padre, quindi credendo che Tom Hanks, il padre, gli abbia lasciato un indizio in un vaso blu tra le sue cose, cerca di trovare l'origine, insomma la serratura di una chiave, che ha un'unica indicazione, il nome Black, quindi lui cerca tutti i Black della città di New York e cerca di raggiungerli a piedi, perché appunto le fobie gli impediscono di salire sui grattacieli, di scendere in metropolitana, di attraversare alcune zone della città, e quindi si può dire che questo gioco lo spinga a continuare quello che il padre cercava di fare, cioè crescere, superare il trauma al quale si è aggiunta anche la morte del padre, e quindi ha modo di esplorare la città e di avvicinarsi ai newyorkesi, che insomma di fronte a questo bambino si trovano a dover affrontare anche la tragedia, che nel cinema sì qualche volta è arrivata, ma è ancora un tema scottante. Questo forse è l'aspetto più interessante del film, perché per la prima volta fanno vedere i newyorkesi un po' più da vicino, in modo un po' più umano, come diceva il Monco in un'altra sede, c'è l'idea che i newyorkesi siano i freddi per eccellenza, i bruschi, i burberi, e invece il film cerca di mostrare una realtà diversa, una New York che si unisce davanti alla tragedia di questo bambino e alla sua ricerca per trovare, insomma, quello che rimane di suo padre. E, sì, un bel film, forte, interessante, in un certo senso coraggioso, però come ho già detto, io non sopporto certi cliché del genere drammatico, per esempio appunto la figura del protagonista, Oscar, che sembra il classico soldatino coraggioso che ha tutti i problemi del mondo, ha tutte le fobie, le psicosi possibili, però è incredibilmente maturo e insomma legge il dolore dei personaggi che incontra, offre conforto. Ricorda anche un po' il personaggio di Roger nel American Dad, del ragazzino ebreo orfano, sordo e con un cagnolino. No? Esatto, sì, è come l'accumularsi dei cliché. Cioè, le fobie, durante il nazismo. Perisce perché è terrorizzato dalla perdita del padre, dal doverlo affrontare. Lo trovo un po' fastidioso che si debba ricorrere a questi stratagemmi, anche perché il film ha dell'ottimo materiale, ha un'ottima storia. Il film strappa lacrime, funziona benissimo, però ecco, un po' più di tatto. Non avendo letto il romanzo, mi è venuto naturale chiedermi quanto ci sia stato messo di cinematografico, perché l'impressione è che in questo senso si è lavorato un po' troppo. Invece sembra che il romanzo sia un po' più complesso, i protagonisti sono tanti, è un po' più corale, appunto i protagonisti sono proprio i newyorkesi, i personaggi di contorno, Oscar è un filo conduttore, invece nel film l'attenzione è tutta su di lui, il dramma è tutto su di lui. Insomma. Io non ho visto il film, non ho letto il libro, però mi ha dato un po' l'impressione di essere uno di quei film drammatici strappalacrime a tutti i costi, è così o è un'impressione sbagliata? Sì e no, cioè, il genere è quello, ha un po' di tatto, non è sfacciatissimo, però per quello dicevo, il personaggio mi dà questa impressione, che tenda un po' troppo a tirarla avanti. Non so se il Monco vuole dire qualcosa. Sì, dico che vabbè, per il tema trattato è impossibile che non sia un film strappalacrime, perché è un dolore che ha colpito tutti ed è ancora molto ma molto recente, e soprattutto, beh, parlo per me, è una cosa che mi ha toccato profondamente, perché sono molto legato alla città di New York, vabbè. Però un pregio del film è che lo sbandiera ai 420, ti voglio far piangere, però al contrario di molti altri film che fanno lo stesso ragionamento, questo ci riesce, nel senso, a un certo punto negli altri tipi di film dici, ah vabbè dai, non ci casco, scusa, mi metti davanti delle cose del genere che, cioè proprio mi vuoi far calare la lacrima, no, guarda, non ci riesci, invece questa volta sarà perché appunto è un dolore così grande, così vicino, che appunto molto forte, incredibilmente vicino, che ci riesce molto bene, anche se gioca a carte scoperte, e quindi sì, forse è un pregio questo. Va bene, non so se volete dire altro sul film, possiamo passare al successivo? Sì. Passiamo al successivo, quindi Sangue Facile di Zhang Yimou, come si pronuncia? Sì, va bene. Alla grande. E ce ne parla il Monco, vai. Allora, Sangue Facile è un remake di un'opera prima. Il remake è di un regista alla sua 16ª regia, anche se ormai è arrivato alla 18ª, ma noi in Italia siamo in ritardo, come in un pianeta lontano anni luce. Ed è il remake di un film che invece è un'opera prima. Le persone in causa sono, uno è Zhang Yimou, regista ultra famoso cinese, e invece gli autori dell'originale datato 1984 sono i fratelli Coen, che poi sarebbero diventati almeno famosi quanto Yimou. Di cosa parla? Nell'originale eravamo nel Texas ed era un bellissimo noir, nonostante fosse un'opera prima, mostrava tutte le capacità di due fratelli, ed era appunto questa storia di un tradimento di un poliziotto assunto dal marito tradito per eliminare i due, la moglie e l'amante. Imu prende la storia, la porta in un passato non definito, almeno io non ricordo che ci sia una data, credo che sia... No, è indefinito, però... Sembra proprio fuori dal tempo e dallo spazio, anche il posto in cui è ambientato. Sì, poi essendo la Cina è difficile dire, vabbè, saranno almeno 200 anni, no, sono villaggi che sono ancora così, quindi è molto difficile. C'è la polvere da sparo, almeno quello si può, è una novità la polvere da sparo, quindi da lì forse si può capire il periodo, però vabbè. Insomma, la riporta indietro di... facciamo anche 200 anni in questo villaggetto sperduto, anzi non è neanche un villaggio, è solo una locanda tra le dune di un deserto inaccessibile, e questa volta i protagonisti sono più o meno gli stessi, c'è un Lee che è un aiutante in questa locanda che è l'amante della moglie del capo, il capo anche qui viene a scoprire del tradimento e assume questa volta un poliziotto, mentre nell'originale era un detective, quindi questa volta parliamo proprio della persona che potrebbe fare le indagini nel caso di morti e vari traffici, che viene assunto appunto per, prima di tutto, come dire, dare prova che la moglie lo sta tradendo, e poi avvenuta, provato la cosa, di uccidere entrambi. E quindi vabbè, è inutile andare avanti con la trama, non voglio spoilerare troppo, è un esperimento stranissimo Sangue Facile, perché soprattutto perché di solito il tragitto è l'opposto, cioè sono gli americani che fanno remake di film asiatici europei, quindi già per questo è interessante vedere un'opera prettamente occidentale trasformata in salsa orientale, e poi un regista del calibro di Mu che si mette a rifare un'opera di due autori, nel senso non siamo davanti a un filmetto che senza tante pretese, insomma in Sangue Facile l'origine dei Coen c'era la propria visione artistica del cinema dei Coen, quindi solo per questo meriterebbe la visione. Poi visivamente è molto ma molto interessante, i paesaggi sono sì, appunto fuori dal tempo, perché ci sono dei colori, delle venature, soprattutto le parti notturne sono molto molto belle. E poi per la versione che gli ha dato Imu, molto personale, molto asiatica, e insomma è un esperimento molto interessante. Ok, intrinseco, dire qualcosa o aggiungere? Sì, sono d'accordo, non l'ho trovato meno interessante, ma non, comunque non meno degno di nota. Sempre come al solito, visivamente non si rimane delusi, c'è sempre comunque il gusto per il colore nei costumi, che qui sono anche, insomma, giocato molto ironico, sì. Trattandosi di una black comedy, forse anche per rispetto al tutto stile dei Coen, cioè c'è una certa ironia asiatica, ecco. Ma c'è Però comunque... no, scusa, è che non dosa bene le parti, nel senso che lo fa, passa molto bruscamente da una commedia molto stupida e molto asiatica, con il ciccione dentuto, dentone, che sì, da screwball comedy quasi, sono veramente infantili, alla parte notturna che dura un'ora ed è molto silenziosa, non ci sono praticamente dialoghi, in cui è molto crudo e molto noir, quindi i Coen sanno benissimo come alternare le cose, e infatti l'originale Blood Simple era molto più dark e meno comedy. Questo è troppo comedy ed è troppo dark, però nel compenso viene fuori un buon lavoro, anche se è strano in tutto. Beh, sì, però secondo me non c'è questa differenza tra la prima e la seconda parte. Sì, chiaramente poi si scurisce e dà anche questa impressione, però già nella prima parte non è così leggero. Sì, è sempre buttata un po' sull'ironia, però il marito violento, la punizione fisica, lei che non è in grado di dargli figli, è molto shakespeariano anche nella prima parte. Sì, poi ci sono, sembrerebbero proprio dei spezzoni comici inseriti spesso, perché comunque c'è il personaggio del poliziotto che è assolutamente negativo, il marito anche, lo stesso la moglie, invece sono quelle due macchiette che sembrano, anche nei costumi, sembrano voler abbassare i toni, l'amante di lei con il vestito rosa sgargiante e il servo ciccione con degli incisivi pronunciatissimi, sembrano sì, piazzati lì. Quello che dico è che lo fa male, i Coen sì, lo facevano, ma molto più... Perché sì, nel complesso mi sembra meno riuscito, chiaramente non puoi dire che visivamente è un lavoro meno notevole, comunque registicamente, però come divertissement non dico che sia dimenticabile, però non so, non lo sentivo così necessario. Si sarà divertito a farlo, sono contento, è un film comunque gradevole, però non so, non capisco lo scopo dell'operazione. Una cosa è che... Si vede che gli era molto, gli piaceva molto. Dico che sì, in effetti è una cosa che insomma lascia il tempo che trova, lo vedi e poi magari te ne dimentichi, però la parte centrale, quella notturna, ancora una volta dimostra la bravura di Mo. Lì è davvero molto bravo, soprattutto perché lavora senza dialoghi né niente, sono versi, sono riprese lunghe, difficili, lì dimostra che è bravo. E soprattutto Mo quando lavora appunto in un divertissement, un qualcosa che non deve per forza portare a una morale o deve per forza farti piangere o qualcosa del genere, molto sociale, è un IMU al 100% ed è bravissimo, perché i tre film in costume, i tre Wuxia sono bellissimi, invece gli altri sono insomma un po' un livello inferiore. Ok, un'informazione, ho visto che il film era in proiezione gratuita sul sito My Movies, vero? Ma ancora c'è oppure... Sì, per un mesetto. Ok, vabbè, quindi... Ci sono anche, non c'entra niente, ma c'è anche A ciascuno il suo cinema, quella serie di cortometraggi di vari registi europei, e anche un altro. Però quello è vecchissimo, invece... Sì, Sangue Facile, senso, però tra le varie cose che puoi vedere adesso. Sì. Sangue Facile è anche uscito il 28 maggio in Italia, credo in due cinema e basta, però vabbè, è uscito. infatti... il doppiaggio italiano lo rende molto più stupido. Sì, ecco, me l'ho dimenticato. Abbassa molto il livello. E sul sito c'è la possibilità di switchare il doppiaggio oppure no? No. Va bene. È la versione BIM. Ok, allora mi tocca Men in Black 3. Questo mese proprio, ho visto solo cagate. Allora, Men in Black 3, come dice il titolo, è il terzo episodio della saga di Men in Black, primo film abbastanza bello, piacque tantissimo, il secondo discreto a merda, questo terzo non avevano idee per fare un prequel, non avevano idee per fare un sequel, hanno fatto una via di mezzo, ovvero la trama riguarda sempre i due agenti J e K, Will Smith e Tommy Lee Jones. Il personaggio di Will Smith, ovvero Jay, è costretto a fare un viaggio del tempo per salvare K e in generale per salvare la Terra da un'invasione aliena da parte di una razza che nella linea temporale, diciamo, di inizio film era estinta, ma dopo l'evasione da un carcere di massima sicurezza di un esponente di questa razza, Bogodiani, che torna indietro nel tempo e modifica questa linea temporale, minacciano quindi la Terra, distruggere la Terra, insomma, vabbè. E allora, vabbè, prima cosa, non so se si tratta di effetti speciali per farlo assomigliare di più a Josh Brolin o se effettivamente si tratta di un lifting andato a male, ma vaffanculo Tommy Lee Jones. Perché? Perché la tua faccia rugosa era una delle cose migliori che il cinema americano ci aveva proposto nella storia del cinema, e tu invece ti sei fatto un lifting, adesso sembri un pupazzo tipo gli sgommati, e quindi insomma non sei più capace di fare espressione facciale, e vabbè, questa è una premessa così. E per il resto, è un film che mi ha lasciato piuttosto indifferente, non è brutto come Men in Black 2, però anche qui ho visto una penuria di idee allucinante. Will Smith come nel caso di Johnny Depp per Dark Shadows, rifà sempre se stesso. E ormai la gag di lui che zittisce nello con la mano, insomma, non fa più ridere, come non fanno più ridere, secondo me, quelle battute che si basano sulla premessa che tutte le personalità che hanno dato qualcosa all'umanità sono degli alieni. Cioè, ok, il primo film, Elvis non è morto, è tornato a casa, e vabbè, fa ridere, fa due risate, Michael Jackson, ok. Secondo film, già, si percepisce certa indifferenza verso certe battute. Arrivati al terzo film, ok, anche Andy Warhol, no, vabbè, palle, cioè. Non è un alieno, Andy Warhol. No, non è un alieno, però la questione che i Men in Black e gli alieni abbiano influenzato, cioè, in modo così determinante il corso della storia dell'uomo, insomma, al terzo film comincia un po' a venire a noia, ecco. E niente, al di là di questo, ma una delle cose secondo me più riuscite del primo film era il gusto della scoperta, nel senso che comunque l'universo di Men in Black si basava appunto proprio sul fatto che il personaggio di Jay era una persona normale che man mano durante il film veniva a conoscenza di un universo nascosto abbastanza suggestivo, abbastanza vasto. Ecco, già col secondo film era venuta meno un po' questa cosa. Col terzo film ovviamente tutti i colpi di scena sono abbastanza telefonati, non c'è più comunque quel piacere della scoperta, appunto perché non c'è più niente da scoprire, e insomma il film procede abbastanza in maniera stanca, insomma mi sono abbastanza annoiato, non mi ha divertito più di tanto. Non è brutto come il 2, però ripeto, nulla di trascendentale, secondo me sfiora appena la sufficienza, mamma mia, non capisci un cazzo. Posso fare una domanda? Ti posso fare una domanda? Fammi una domanda. Sei fan della saga o l'hai vista così tanto? Io sono un fan del primo episodio perché mi piacque parecchio, l'ho rivista anche di recente, mi è ripiaciuto, insomma. Mi piacque il primo episodio, ecco, non so se posso essere definito un fan della saga. Ma io penso che sia tutti e tre i capitoli siano molto divertenti. Il 2, vabbè, è più brutto. Il 3 invece, insomma, io mi sono divertito molto, non mi sono per niente annoiato, mi è piaciuta la storia, anche se è il classico. E cosa facciamo al terzo capitolo? Viaggio nel tempo, classico. però mi è piaciuto. Poi sono tante di quelle stupidate, tipo il latte al cioccolato che ti aiuta nei viaggi temporali. È talmente divertente che ti lasci trasportare in questa stupidata che niente, ti vola con niente. Sarà a me che non piace Will Smith di suo, quindi cioè razzista. No. Secondo me neanche a Will Smith piace Will Smith. Sì, probabilmente. Ne approfitto per inserirmi. Sì. Secondo me è bello anche per questo, perché Will Smith ha meno, non lo so, è meno Will Smith, c'è, fa le sue battutine, però secondo me è molto più contenuto, per esempio rispetto al 2. Forse proprio perché nel 2, soprattutto nella prima parte, non c'era la spalla e quindi era un po' a ruota libera, ma in questo, insomma, a me è sembrato molto più digeribile come personaggio e come attore, anche se sono tutti i limiti che ha evidenti. Cioè, a me non è dispiaciuto neanche Will Smith, per dire, comunque il film mi è piaciuto molto, come lui mi sono divertito parecchio, è prevedibile, ci sono buchi di sceneggiatura, non solo quelli inevitabili del viaggio nel tempo, ci sono un sacco di problemi. Però io mi divertivo e soprattutto sapevo cosa mi aspettavo, ma ero interessato a vedere cosa succedeva alla fine, cioè come si arriva, insomma, senza spoilerare. Vabbè, come si arrivava allo snodo così sul finale di Iron Sky, cioè pure questo allora è un finale di miracolo. No, non quel finale, io parlo dello scontro, della conclusione, cioè di come si congiungono i fili, insomma. Sì. Poi è un po' deludente perché abbiamo fatto dei miei schemi, mi ero immaginato diversamente, però c'era proprio l'attesa, la curiosità di vedere cosa succedeva, ed era, mi sono divertito, non l'avrei mai detto, sono partito un po' scettico, ma poi anche queste piccole cose, per esempio il ritorno al passato, lui entra nella base e trova questi alieni che sono quelli tipici del cinema anni 60, colorati, con i casconi sferici, con le facce più stupide possibili, le maschere che sembrano finte, cioè anche una ricerca, anche il viaggio. Quello l'ho apprezzato pure io, i mostri di Nick Baker sono veramente eccezionali. Sì, ma c'è una bella ironia, anche il viaggio nel tempo, il salto, questa idea che tutta la realtà si aggiorni mentre lui cade. Io ho visto creatività, ho visto belle idee. Mi è garbato assai. Esageriamo e diciamo ben venga un quarto capitolo, sempre se a questi livelli. Sì, se lo riscrive lui. No, beh, sarebbe divertente un altro capitolo così, sullo stesso ritmo. Non so, ma che altro ci sarebbe da dire in un quarto capitolo? Cioè, un'altra invasione aliena, tanto. Ma sì, è divertente. La fonte della gioventù animato, trame ce ne sarebbero probabilmente. La fonte dell'eterna giovinezza, come basta che basta che lasciano stare K, perché ormai in ogni capitolo gliene succede di ogni. La cosa del lifting l'avete notato anche voi o so io che... A me più che tirato... No, aspetta. Circolando via. Appunto, un lifting è andato a male. Come pronunciato, il sopracciglio giù, poi la tinta... Ma cosa state dicendo? Quello era un altro attore. Era un altro attore. Vedete qual è il problema di Men in Black 3? È che tutte le scene che ti hanno bombardato al cinema nel trailer, le stesse tre scenette comiche, te lo fanno venire proprio, ti fanno venire la nausea, tant'è che quando le vedi nel film proprio, io sono andato al cinema un po' di volte, l'ho beccato sempre, ed è lo stesso trailer, non ce n'è neanche una versione alternativa, con quelle tre gag sbattute lì, secondo me neanche gli rende giustizia, perché è bruttino. Sì, infatti tu dicevi, ok, l'idea del viaggio nel tempo è suggestiva, è fatta bene, ok, però anche quella nel trailer c'era, cioè una cosa che abbiamo visto tante di quelle volte, quando la vedi dici sì, vabbè. Sì, rovina proprio il gusto, perché comunque era carina. Poi, per quanto sia originale l'idea, te la fa venire a noia comunque. Sì, esatto, e per questo bisognerebbe almeno diversificare, comunque ridurre i ritmi, perché tanto di trailer da mettere ce ne sono. Poi è un'altra cosa, mi è venuta in mente della scena il solito problema del doppiaggio. Quando salgono sull'Empire secondo Zito, ma in realtà sul Chrysler, il figlio del viaggiatore nel tempo gli dice cosa devono fare, no? Dobbiamo andare in alto, ma cos'è che come lo traduce non mi ricordo. Comunque, we have to get high. Una canna fumaria. E invece lui dice dobbiamo andare su una canna fumaria, dobbiamo farci una canna fumaria. Ma chi è che le traduce queste cose? Vabbè. Orribile. Servi Dio. Orribile, però sì, orribile. Darkman, credo che dopo questo... Aspetta, Darkman, tu dici? Vabbè, è un'opinione un po' forte, ci sta. No, io sento che ha qualcos'altro da dire. Sì. È un gnomo armato. Vabbè, dai, stringiamo. Come dagli torto. Anche troppo, dai. Sì, stringiamo fortissimo. Ecco, prossimo io, film, quella casa nel bosco. La casa nel bosco, che non lasciatevi traviare... Non è una cazzata, anzi... Non è una casa nel bosco. No, non è, infatti è una cabin. No, non è una cazzata, anzi, si prende proprio gioco di quelle cazzate. Però, ecco, non voglio dire altro. È un meta-horror, inizia nel peggiore dei modi, nel senso c'è la solito gruppo di teenager, c'è l'atleta, la bionda, la zoccola... anzi la stessa, la vergine eccetera, c'è sempre il solito gruppo che dice ammazza un altro film così palloso, e invece no, non dico nulla, nel trailer si vede una cosa che lascia capire qualcosina, però insomma è davvero molto interessante, è un esperimento, ma sì, anche coraggioso nel suo genere, insomma. E insomma non spoileratelo a nessuno, non dite niente, non guardatevi neanche il trailer, va, andate su fiducia e tanto ne avete visti tante di horror brutti. La cosa che si vede nel trailer, tra l'altro, mi è stato detto che... No, non lo dico, ma che non me la manco ricordo che c'era qualcosa, non me la ricordo che cosa era. Però accade veramente nelle prime battute del film, no? Sì, però... Mi hanno detto che c'è un altro colpo di scena verso... Sì. Dico solo, inizia in questo modo, ma non lasciatevi... Traviare. Sì, diventa davvero molto interessante, anzi la prima scena è stranissima, perché ci sono queste due impiegati con letti bianchi che discutono su cose banalissime, e poi il titolo arriva improvviso, è fatto anche molto bene, e poi inizia la vicenda. Quindi dice, ma che cazzo sta succedendo? E, insomma, interessante. Poi, nel finale, non dico niente, ma c'è una scena, dico solo ascensori, c'è una scena con tutto, che rappresenta tutto quello che un fan vero dell'horror avrebbe sempre sognato di vedere, perché c'è di tutto e di più. Okay, quindi lo consigliamo, sì, a manetta, insomma. Io moderatamente lo consiglio. Ah. A me perché? È piaciucchiato. Dovevamo contenerci, ma poi ho visto questo film, stavo parlando un po' anch'io. Sì, ecco, secondo me il problema è che c'è dietro una buona idea, perché quella è innegabile, però c'è solo quello, perché questa parodia dell'horror, intanto poi non diceva non cascateci, non è stupido, non c'è pericolo, perché sta avendo voti altissimi, ha un successo non di incassi ma comunque notevole. Sì, ma di solito chi va a vedere è un successo che io non mi non spiego sa leggere, ecco. Sì, però vedo anche qualche appassionato che gli dà addirittura dei 9. Boh, io non so, cioè, capisco poi come si possa magari dare 9 a questo e bocciare un film come Scream, che fa un'analisi un po' più, nonostante i difetti, fa un'analisi un po' più approfondita del genere, delle meccaniche. Qui c'è un'idea, è una parodia, ma una parodia che più che Scream ricorda Tucker and Dale vs. Evil, cioè proprio un ironizzare in modo piuttosto facile, e a livello di sceneggiatura appunto c'è la stessa facilità, non c'è un tentativo di snocciolare queste meccaniche, di ironizzare in modo un po' più intelligente. Ti dicono, sì, è stupido perché è stupido, e noi ti facciamo vedere un modo diverso di interpretarlo. Però, ho trovato un filmetto quasi, ha delle buone idee, è un po' anche arrogante, perché sembra voler dire, ecco, l'horror è così e cos'ha, è colpa di qualcuno, non si sa chi è. Sì, peccato che sono 40 anni che escono questi film, ma 40 abbondanti, cioè... Lo slasher è vecchio e stravecchio. Sono svegliati oggi. Lo slasher è vecchio. Grazie. Qual è l'alternativa? La parodia? No. I film belli, horror, escono e non vengono prodotti. Quello bisognerebbe fare: produrre, dare soldi a quei pochi che le idee le hanno. Ma non è arrivare con Non è un suo problema. Il suo obiettivo è prendere in giro, ma proprio una bella presa per il culo. Invece che Scream lo fa quasi. Facile, sparare sulla Croce Rossa. Sì, è come dire. Ribadisce l'ovvio, non vedo neanche la novità. A me sembra che a te dia fastidio che lo prenda in giro proprio in maniera smaccata, mentre Scream lo fa, ma insomma è sempre Scream, è quasi lo fa ma senza essere troppo cattivo. Questo invece è proprio sì è molto perché. Ho detto perché ho preferito Scream, perché secondo me lo fa in modo più intelligente, c'è una critica. Ma dove? Beh, il discorso metacinematografico è un po' più raffinato lì, poco, ma... Piano con le parole. Qui non posso neanche dire troppo perché sennò rovino la visione, però qui non è che c'è questo grande impegno, anzi... Vabbè, in Scream era un film nel film, qui è un'altra cosa, ok? Sì, però non ci vedo grandissime parlare differenze. Nel dettaglio, è complicato, però secondo me... è troppo lato, io non lo boccio, però... non mi spiego come si possa, ma quasi che Whedon, qualsiasi cosa faccia, me la prendo più con lui che prende in giro l'horror. È quello che non capisco. Anche il finale, la scena che dici tu, sembra le stesse meccaniche di The Avengers, butto tutto lì e godetevela. No, non vedo, il pregio dovrebbe essere la sceneggiatura. Ha il successo che ha per lo sceneggiatore, secondo me non è scritto neanche così bene, è passabile. Ma come divertimento funziona bene. Poi è vero, te l'avevo detto forse già, la trama principale, che è quella che non si può dire perché è esterna, è bruttina, anzi fa quasi prende in giro l'horror, ma poi fa un film che è brutto quanto gli horror che prende in giro. Sì, cioè. E poi sì, la parte, quell'altra cosa che non si può dire, la sottotrama, che è solo quell'idea, dici... Stiamo parlando di un film di cui non si può parlare. Secondo me, ecco, da questo punto di vista, volevo arrivare solo a questo, appunto, Tucker and Dale vs. Evil, secondo me fa la stessa cosa, ma è più divertente e un po' più intelligente. Ma io li consiglio tutti sullo stesso livello, non riesco a dire... Questo ha avuto più successo, allora magari dà fastidio che abbia avuto successo, non so, solito ragionamento che quelli che hanno troppa fama poi si attirano le peggio critiche, non lo so, li vedo. Vabbè, tutti sullo stesso livello. Intanto ha 9 dappertutto, non è quello, sì, ma secondo poi... me non ha, io ragionavo, ho detto non è che ha la fama meritata, ho detto ha un voto, ha una critica che secondo me non sta in piedi. Ah, su quello poi sono d'accordo, io non gli darei mai 9, mai 9, ma neanche voti simili. C'è l'entusiasta che dà il voto sparato. Ragazzi, tanto vi dovete pure scannare sul prossimo, quindi dai, andiamo al prossimo, dai, che qua vi vede il sangue scorrere, anche se mi avete detto che già ne avete parlato. Non l'ho visto. Ma come non l'hai visto? Cosa? Dai, ci parlate di Cosmopolis, chi inizia di voi due? Lui. Ultimo film di Cronenberg, un altro adattamento, dopo Ad Angelus Method. Questo è basato su un romanzo di De Lillo che non ho letto, non so voi. È un romanzo molto particolare, ricorda il tentativo di Il Pasto Nudo, insomma romanzi apparentemente intrasponibili, che invece in un certo senso vengono trasposti, poi vedremo se con successo. Sì, dunque, anche qui pareri molto controversi, c'è chi l'ha stroncato, c'è chi lo ha promosso a pieni voti, non ho visto tante reazioni intermedie. Sì, è finito. Sì, esatto, la tua è già un po' più tollerabile, non ci si deve per forza schierare. Dunque, sì, intanto partiamo dalla cosa che interesserà di più le nostre fan. Robert Pattinson è il protagonista, subito discussa come scelta, secondo me non del tutto un errore, comunque sì, non che si confermi come grande attore, però ci sta. E insomma interpreta questo personaggio di cui non ricordo neanche il nome, non so se ne ha uno, comunque Packard, non mi ricordo, vabbè. Sì, Packard è il cognome, ma il nome non mi viene. Che è uno dei nuovi Pachi. Uomini di Wall Street, insomma i giovani Zuckerberg, Non sento. Vai. Sì, svanisce ogni tanto, non so perché, però vabbè dai. Forse il microfono. Sì, forse pure la connessione. Vabbè, comunque dai, ci stai. Uno dei giovani milionari che si è arricchito, non è ben chiaro per cosa, probabilmente qualcosa legato all'informatica, non è importante. Insomma, una mattina si alza per andare a fare insomma il suo dovere, se così si può chiamare, e decide di attraversare la città per farsi rifare il taglio, cioè il taglio dei capelli. Nello stesso momento il presidente degli Stati Uniti si trova in città e quindi il traffico è paralizzato e questo viaggio sembra non terminare mai, si prende diciamo una giornata buona. E durante questo viaggio Packard ha modo di parlare e comunicare con una serie di colleghi, amici, addirittura la moglie, su una serie di questioni spesso non proprio chiare. E niente, quindi un film ambientato in una quasi solo in una ambientazione che è la limousine del protagonista e in rari casi ristoranti, piccoli locali, la strada, ma sempre per pochi attimi, per pochi minuti. Un film molto chiuso, ricorda il Cronenberg del primo periodo che tendeva ad ambientare le scene in luoghi chiusi, claustrofobici, spesso sporchi, qui meno, c'è un motivo. E niente, è un film difficile perché come hanno notato molti è basato completamente sui dialoghi, dialoghi non proprio semplicissimi da seguire, ma in realtà insomma, nulla di così tremendo, insomma. Richiede un po' di attenzione a cui magari lo spettatore più comune non è abituato, tutto lo spettatore dei film di Pattinson, però ecco, ha un suo perché. Io non condivido certe critiche, capisco anche quella principale, cioè perché fare un film su un romanzo del genere, cioè un romanzo basato sul dialogo, scritto in flusso di coscienza. Non so, a me piace vederla come una sfida, fare un film su qualcosa di impossibile da trattare, secondo me ci riesce, più che discretamente, perché comunque tecnicamente è sempre un ottimo lavoro, non noto cali, è un film, secondo me, una spanna sopra l'ultimo lavoro, Ad Angelus Method, che io non ho particolarmente apprezzato, e niente, parliamone. Okay. Non mi divulgo. questa è una citazione che pochi possono capire. Sì, colta, cortissima. Sì, tantissimo, cortissima. No, io non lo stronco del tutto. Ho letto dei pareri di gente che non credo neanche sia arrivato a fine film. Dice semplicemente che palle, una roba noiosissima, non si capisce niente, eccetera. No, io sono arrivato stanco come tanti, forse come tutti, perché è molto impegnativo a livello cerebrale. Sono arrivato alla fine, l'ho capito, però ammiro tantissimo la scelta di Cronenberg di fare un film su un libro difficilissimo. dico chiaramente, come diceva Intrinseco, perché farlo. Lo vedo solo come una spacconata quasi, o comunque una scommessa, e alla fine non riesco neanche a capire se lui ci sia riuscito pienamente. È un film difficile da seguire, non solo per lo spettatore medio. Sì, sì, vai, continua. E lo spettatore medio e lo spettatore di Pattinson. È difficile, punto. E questo spacca in due le persone, le persone, il giudizio delle persone. Sennò sarebbe già arrestato il film, sarebbe un serial killer, lo sapete, no? Lo sapete. E niente, io non riesco a bocciarlo del tutto né dire che mi è piaciuto. Sono uno dei pochi che rimane a metà. Dico che è un buon film sotto certi aspetti, e dico che è un film non riuscito sotto altri, soprattutto perché, essendo un libro basato sul flusso di coscienza, cioè un libro scritto su un flusso di coscienza, sono dialoghi improponibili al cinema, perché non riesci a stargli dietro, non riesci a metabolizzarli, mentre in un libro puoi tornare indietro di una pagina, te li leggi, te li assapori, te li scrivi, te li fai quel cazzo che ti pare. Qui invece è un nastro continuo, vai, poi passano da un argomento all'altro molto facilmente, tipo parlano delle limousine e poi vanno a parlare della, che so, la zuppa che stanno mangiando, ma all'interno della stessa frase. Quindi okay. È difficile, è tutto lì. È una sfida, ci sarà riuscito o non ci sarà riuscito, non riesco a dirlo. E mi ha lasciato, in alcuni tratti molto divertito, perché ci sono dei dialoghi quasi surreali, ma da tipo da commedia off-Broadway degli anni 70 che fanno ridere, e per il resto mi ha lasciato indifferente, e di solito se una cosa mi lascia indifferente non la apprezzo, non riesco a dire che è buona. Certo. Sì, comunque anche secondo me è una scommessa, non so se è pienamente riuscita, come dice Cronenberg, non so, c'è un'intervista in cui lo diceva, fare cinema è un atto di fede, no? Non so se sia questo il caso, comunque ci ha provato. Secondo me, perché farlo, hai detto tu, perché adattarlo? Ma secondo me ha molto in comune col suo cinema, cioè l'ha voluto fare perché ci si ritrovava. Sì. Io ci ho visto molto di quello che lui di solito vuole rappresentare nei suoi film. Mi ha ricordato Il Pasto Nudo, ma magari più che altro anche Crash, ma insomma ha trovato tanto di tutto, anche nell'ultimo film, perché dal passare, dal rappresentare le follie, le manie, le psicosi a livello visivo, per esempio come in Videodrome, adesso sembra che le affronti in modo più astratto, più psicologico, tant'è che l'ultimo film parlava proprio di questo. Quindi adesso semplicemente si è evoluto, però mi sembra che ci sia continuità, stia raccontando le stesse cose. Questo romanzo parla di quelle cose, parla dell'uomo, è un uomo chiuso in una macchina che sembra fuori dalla realtà, ma anche in questo caso anche il dialogo, come dicevi tu, surreale, sì, ha un suo significato, perché è una realtà assurda, sono persone che vivono fuori dalla realtà, sono dentro una macchina e fuori sembra che stia facendo un film, tant'è che no, teatro, che cos'è? Di no, nuovo. Niente, ho sentito un tifone, penso, non lo so. Ma arrivava da lui, no? E dopo, perché tu hai detto una realtà e c'è stato un salto di 2 secondi, vabbè. E forse sta saltando il cavo del microfono, devo cambiare. Vabbè. E non mi ricordo più niente, quindi c'è una motivazione a questo tipo di dialogo, di messa in scena. Dicevo, mi ricorda proprio un film, lui è chiuso in questa macchina, fuori passa la città, ma sembra proprio proiettato, infatti credo che poi abbiano usato un trasparente, perché le scene esterne non visibilissimo. Sì, appunto, il fatto che sia così visibile, che stoni quasi con l'interno della limousine, mi dà questa impressione, volesse rappresentare un uomo chiuso in una macchina fuori dalla realtà, che quando qualcosa gli sfugge dalle mani, dalla conoscenza, in questo caso la prostata simmetrica, lo yen, perde il controllo. Questo spagnolo, Juan, quando è che viene fuori? Pensavo fosse messicano, io non sapevo se chiedere a quelli vicini a me. non fare brutta figura. Va bene, finiamo qui con Cosmopolis e film in sala. Dai, siamo già troppo. Allora facciamo molto rapidi, diciamo qualcosa sui film in uscita. In breve, non esce niente. esce un film. Il dittatore. È uno molto interessante, sembra C'era una volta in Anatolia, sì, del regista delle Tre Scimmie, che ha un nome in... Ceylan, non ricordo mai come cacchio si chiama, vabbè. Comunque, vabbè, sì, per il resto, poteva uscire, vabbè, consolatevi che poteva uscire Prometheus, invece ce ne avevamo tutti, C'era una volta in Anatolia. Io non so... Non so quando sarà la prossima puntata, però ricordatevi tutti che il 20 giugno torna nelle sale, rimasterizzato, ripulito, The Blues Brothers, che è un'occasione per vederlo al cinema, e non è assolutamente da farsela scappare. Credo 20 giugno, 21 giugno. Sì, 20 e 21. Sì, sì. Magari va bene come un ritorno al futuro e rimane di più in sala, comunque quei due giorni. Sì. E in tutto il mondo, non so quando saremo alla prossima puntata, comunque lo dico già adesso. Sì, 20 giugno comunque, il 20 giugno. Sì. Oh, poi a me intriga un pochino, non troppo, Le paludi della morte, lo dico. Della figlia di sì. Michael Mann. Sì, non so perché, ho visto il trailer proprio quando sono andato a vedere Cosmopolis, intriga, non mi sbilancio. Ma io invece l'ho catalogato sotto Pennica, quindi... Ok, approfondiremo questo discorso delle tue catalogazioni in un podcast successivo. Passiamo ai momento, cioè, ricordiamolo, c'è anche Paura in 3D dei Manetti Bros. È vero. Film italiano in 3D horror, hanno fregato Argento sul tempo, non è neanche uscito l'arrivo di Wang e già se ne escono questa bomba, Non perdetevela. Ok. E vabbè, passiamo ai consigli molto rapidamente. Dai, intensive, cosa ci consigli? Io consiglio un film che doveva uscire nelle sale, almeno io l'ho visto tra le uscite possibili, ma non si è più visto. Si chiama Headhunters, che è un adattamento di un romanzo di John Esbo, credo si pronunci così. È un film norvegese, un thriller su un ladro di quadri che fa un errore e si trova braccato da un militare. È molto interessante, divertente, ottimo ritmo, abbastanza ben scritto. Purtroppo è passato inosservato, e consiglio. Un altro, veloce, e l'avevo già commentato, consigliatissimo, mesi fa, doveva uscire anche questo al cinema, in questi giorni, non so perché è sparito, è uscito come La fuga di Marta, con Elisabeth Olsen, un bel thriller su una ragazza che si allontana da una specie di famiglia Manson. Insomma, ben diretto, un'ottima opera prima, se riuscite a trovarlo, La fuga di Marta. Ok. Il Monco invece? Vabbè, io consiglio prima di tutto un programma, contenitore, fuori orario, che immagino conoscano tanti, ma nessuno approfondisce mai, soprattutto per l'orario assurdo. Comunque dal venerdì al lunedì fa delle ottime e introvabili soprattutto pellicole. Dateci sempre un'occhiata e soprattutto fatevi un registratore, soprattutto perché non mi ricordo più, forse una settimana fa ha mostrato L'Enfer di Henri-Georges Clouzot, che è un documentario uscito in Francia nel 2009, presentato a Cannes, di Serge Bromberg, credo si pronunci così, che racconta tramite quel poco materiale che è rimasto del film che stava girando Clouzot nel 64, L'Enfer, un film che avrebbe dovuto cambiare il cinema, da lì in poi tutti sarebbero dovuti confrontare con L'Enfer, come altri film come Otto e mezzo, da cui si era molto ispirato ed era stato molto colpito Clouzot, che è lontanissimo dal modo di fare di Fellini, quindi anche questo lo rende molto affascinante. Ed è un progetto che purtroppo non ha mai visto la luce, perché per mille problemi, per Clouzot che aveva tantissime idee e troppi soldi, troppo tempo, quindi ha sperimentato di tutto e in tutto questo tempo è riuscito a litigare con chiunque, insomma c'è stato un mucchio di ritardi, un mucchio di casini, nonostante ci fosse la miglior troupe del mondo lì al momento. Tutti i soldi disponibili, perché la Columbia aveva dato budget illimitato per un film che comunque era un film piccolo, E poi c'è stato il gran finale in cui Clouseau ha avuto pure un infarto sul set, quindi il film è completamente naufragato. Il documentario è interessantissimo, parla di tutto questo, fa vedere gran parte del film, fa vedere tutti gli esperimenti che Clouseau ha fatto, che sono interessantissimi e ricordano gli esperimenti che faceva Bava e ricorda esperimenti che hanno anche che in futuro sarebbero stati fatti da altri, e quindi era un film avanti al suo tempo che purtroppo non vedremo mai. Lo abbiamo visto, pronto? Sì. Ah, ok, è andato via un rumore, vabbè. Lo abbiamo visto nel 97, mi pare, perché la sceneggiatura è poi stata ripresa da Chabrol, che ne ha fatto la sua versione. Non ci sono più esperimenti, è un film molto terra-terra, come tutti i film di Chabrol, ma nonostante tutto è un ottimo lavoro anche quello di Chabrol. Quindi consiglio il documentario L'Enfer di Serge Bromberg e L'Enfer di Claude Chabrol. Ok. Allora, io molto brevemente un consiglio letterario, Walt Disney, prima stella a sinistra, di Mariuccia Ciotta, edito da Bompiani. Ciao! uscito da poco, relativamente poco, insomma, l'edizione tascabile, viene 10 euro però sui siti che danno il 15% di sconto, potete trovarlo anche a 8,50. È un libro molto, molto interessante, soprattutto perché offre un punto di vista diverso da quello su Walt Disney, diverso da quello, insomma, della cultura pop, che lo dipinge un po' come un despota nazista, eccetera, eccetera. C'è parecchia aneddotica, sia sulle lavorazioni dei film che ha realizzato, ma anche sulla fondazione dell'azienda della Walt Disney, ma anche sulla vita privata dell'artista, molto interessante, non lo sto trovando veramente molto molto molto bello, ecco. Un altro consiglio, visto che probabilmente non uscirà mai sul suolo italiano, è la prima stagione della serie televisiva Game of Thrones, ovvero il Blu-ray della prima stagione di Game of Thrones. Lo potete trovare su Amazon UK o comunque su uno dei siti, insomma, vendono prodotti provenienti dall'Inghilterra. Sono 5 Blu-ray per 10 episodi, quindi insomma massimo ci sono 2-3 episodi a disco, quindi la qualità video è altissima, roba impressionante. Dovete farci un po' l'orecchio per quanto riguarda l'inglese, magari aiutarvi con i sottotitoli. Se siete direttori del libro vi verrà facile. Magari per i non lettori non è un inglese difficilissimo, però non lo so, considerate, insomma, magari provate a guardare su Sky una puntata in lingua originale e valutate voi l'acquisto. Pieno di extra, sia per quanto riguarda le lavorazioni dei singoli episodi, ma anche i commenti agli episodi. Molto molto interessante, c'è anche un bel poster con la mappa di Westeros. E niente. Per me può andare bene così. Non lo so, volete dire qualcos'altro? No, Darkman? Abbiamo messo anche le foto segnale di che sui cartoni di latte, ma bene, niente, non ci hanno fatto passare. Ben trovati da Andrea di Tre. Vabbè. E vabbè, questo... ci salutiamo qui, ma di cosa parleremo la prossima puntata sarete voi a deciderlo. Scriveteci su Facebook, sui forum, visitate il nostro blog su Blogspot, venite anche su Twitter e fateci sapere quello che vi piace di più dal mondo della pellicola e della celluloide. Ciao. Sì, sarete ignorati tutti quanti, ok. Sì. Salutiamo, okay. Ciao a tutti. Equamente ignorati. Equamente ignorati, sì. Vige l'uguaglianza, nessuno male un cazzo. Ok, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. È un gnomo armato di ascia. Si conclude qui la prima puntata di Filmbusters. Volevamo tenerci al di sotto dei 45 minuti di durata, non ci siamo riusciti, confidiamo di riuscirci per le puntate successive. Fateci sapere comunque se la durata vi aggrada o se preferite effettivamente una versione ridotta del nostro podcast. Per i contatti vi rimando alla pagina di Facebook, come al solito cercate Filmbusters. Il nostro sito è il blog filmbusters.blogspot.com, siamo anche su Twitter, comunque trovate tutti i contatti sulla pagina del nostro blog. Con questo è tutto, ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti, belli e brutti.